sono 3 giorni, dal 28 di febbraio all'1 al 2 marzo, più di 60 tra incontri, workshop, seminari, laboratori con i cittadini. E diciamo, le due idee di fondo sono: una, riflettere sul welfare del terzo millennio. Sta cambiando moltissimo dal punto di vista demografico, economico, sociale, epidemiologico, ma cerchiamo di affrontarlo proprio con il tema della riduzione delle diseguaglianze, che ci pare uno dei temi che sta più lacerando e dividendo le nostre società. E quindi il welfare del terzo millennio deve essere un welfare che davvero si pone l'obiettivo di ridurre quelle diseguaglianze. Lo vogliamo fare affrontandolo a tutto campo, quindi dalle politiche abitative alle politiche verso la grave emarginazione, alle politiche verso i migranti, alle politiche verso le famiglie, verso gli anziani. Si troverà davvero un po' tutto il panorama. Lo vogliamo fare pensando anche a come queste politiche possono impattare sulla progettazione urbanistica della città. L'urbanistica non è certo aliena dal doversi essere ripensata anche in termini di benessere e di promozione della salute, ma anche di politiche culturali e di politiche educative. Dall'altra, questa 3 giorni vuole essere anche la dimostrazione di quanto capitale sociale c'è a Bologna, e quindi abbiamo dedicato Sala Borsa come casa delle associazioni, Palazzo Renzo come casa dei cittadini, dove tutte le persone potranno venire e proprio anche interagire con i servizi, con gli sportelli, e li abbiamo portati tutti là per quei giorni, partecipare a laboratori, fare domande, eccetera, con una mostra sui 100 anni del welfare che ci riporta un po' al nostro passato, che è un passato forte qua a Bologna, di costruzione dei sistemi di protezione sociale, dal sindaco Zanardi fino alle case della salute di oggi, con un'ipotesi di narrazione il 2 di marzo all'Aula Magna di Santa Lucia, un ripensare a ciò che è successo purtroppo in tangenziale 6 di agosto, pensando appunto a come la comunità ha reagito. Non è stato solo un fatto di alcuni servizi che sono arrivati sul posto, ma di come tutta la comunità bolognese ha reagito. Quindi anche questa 3 giorni vuole essere l'idea che il welfare del futuro è un welfare di comunità, non è un welfare solo fatto di servizi, di prestazioni singolari, ma di una rete, di una costruzione di reti sociali, formali e informali, dove tutti possono avere un loro ruolo, un loro luogo e portare il loro contributo. Ecco, questo sforzo così corale, insomma, vuole far sì che Bologna ridiventi un laboratorio nazionale su questo, e sempre di più caratterizzarsi con questa identità sociale che io credo sia un po', insomma, la storia, e debba rimanere anche il presente e il futuro di Bologna. Prendersi cura, non lasciare indietro nessuno e ridurre le diseguaglianze. È un progetto ovviamente molto ambizioso, ma per quanto è possibile io credo che è uno, o forse il progetto che io vedo per davvero riportare coesione sociale nelle nostre comunità, per sconfiggere paure che ci sono, risentimenti, rancori, e per riportare ognuno dentro una dimensione che è quella comunitaria, cittadina, dove si possano trovare dei luoghi in cui ci si prende cura degli altri. Si è parlato di welfare sull'abitare, e sono recenti appunto varie, diciamo, crisi abitative, dagli studenti fino a senza tetto, così. Quali saranno, diciamo, gli incontri più specifici su questi temi? Cosa si farà nel futuro a Bologna per risolvere queste problematiche? Su questo, infatti, ovviamente non è solo del mio assessorato questo, ma abbiamo invitato tutti gli altri colleghi con cui ci stiamo integrando su questo. Una parte di Palazzo Renzo sarà dedicata esclusivamente ai temi dell'abitare, anche innovativo, ai temi del co-housing, i temi della transizione abitativa. Rispetto ad alcune crisi del passato, molto è stato fatto. Cominciamo a strutturare anche qui un sistema molto più ampio di transizione abitativa, di prima accoglienza, di co-housing. Ci saranno un fondo per l'affitto che viene incrementato anche attraverso il nostro bilancio. Insomma, cercheremo di mettere in mostra come si possa avere una politica più generale sulla casa, che parta da chi è in difficoltà e quindi dalla primissima accoglienza, per passare poi alla transizione abitativa, cioè aiutare i nuclei a ricostruire anche delle capacità autonome di poter poi avere le case da soli e di riprogettare la propria vita, a partire proprio dall'abitazione, al co-housing, ad alcuni progetti innovativi che si stanno facendo con l'azienda di servizio alla persona, ma anche a cosa si può fare per giovani coppie e insomma il mercato dell'affitto, studentati, eccetera. Cercheremo di metterli in mostra e poi di ritradurle anche, di avere un patrimonio di idee per poterle poi ritradurre anche in ulteriori servizi e progetti di carattere innovativo.